Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La moratoria banche imprese, da poco si è conclusa la conferenza stampa del presidente dell'ABI Giuseppe Musse, della presidente di Confindustria Marcegaglia, ministro Passera presente, ne parleremo in apertura, mentre ancora torneremo a parlare degli stipendi dei manager, pubblici, con chi ha il compito di controllare questi stipendi e trovare anche una omogeneità, un tetto, ed è il presidente più noto in questo momento come padre del sottosegretario al welfare Michel Martone. In realtà cercheremo di capire che cosa stia facendo il governo per non solo ridurre il tetto di questi stipendi, ma anche renderli omogenei, perché quello che è emerso dalla pubblicazione degli stipendi dei manager pubblici è anche la giungla, l'incomprensibilità di alcuni livelli di retribuzione che non hanno senso, nel senso che ci sono consiglieri che prendono più di presidenti di altre autorità, insomma una vera e propria giungla. Ancora parleremo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Perché? Perché 10 mesi fa l'assemblea degli azionisti si svolse in maniera così conflittuale tra la lista di maggioranza e la lista di minoranza che a un certo momento furono bloccati gli interventi della lista di minoranza e volarono le mani proprio, non gli stracci. Arrivarono i carabinieri a sedare per motivi di ordine pubblico. Ora abbiamo visto la polizia andare delle volte nelle banche, ma per reati, non per motivi di ordine pubblico. Invece lì capitò così. Sembra adesso che ci sia un tentativo di trovare una pacificazione utilizzando, e ne parleremo tra poco, anche una figura esterna. Ancora, come va la borsa? Più 0,60% Milano, più 0,50% Parigi e 0,60% Francoforte, invariata Londra, l'America più 0,22%. L'effetto positivo c'è, nel senso che devo dire l'abbassamento del voto è stato impulso al debito greco, che l'ha portato a parziale default, cioè default selettivo, SD, è il penultimo scalino prima del default vero e proprio, ha sorpreso pochi, ha delle conseguenze pratiche però, ossia la Banca Centrale Europea non può più accettare i titoli di Stato greci come collaterale, come prestiti, come garanzie, scusatemi, per i prestiti che dà alla Grecia. E infatti la Banca Centrale Europea ha sospeso temporaneamente l'accettazione dei titoli di Stato greci come garanzia a prestiti non esigibili. Tra l'altro sembra proprio che il vertice dei leader dell'area euro che si sarebbe dovuto tenere venerdì non vi sarà. Le resistenze della Germania a discutere del potenziamento del Fondo Salva Stati, ISM, sembrerebbero all'origine di questo rinvio del vertice. Però devo dire che i mercati reagiscono bene, nel senso che da un lato sono tutti positivi, e anche e soprattutto i titoli bancari da noi, e poi lo spread decennale dei BTP è in lieve calo a 355 punti, nonostante appunto Standard & Poor's di ieri sulla Grecia. Anche i bonus, i BTP spagnoli sono a 316 punti base, quelli francesi a 113 punti base. C'è stata anche un'asta oggi del Tesoro, sono stati venduti 3 miliardi e 750 milioni di BTP a 10 anni. Il tasso è sceso, anche se non tantissimo rispetto allo scorso 30 gennaio. Comunque 18 punti in meno, ossia per trovare investitori il nostro Stato ha dovuto offrire il 5,50% di rendimento contro il 6,080, scusatemi, sono chiaramente 58 punti in meno. Il 6,080% era quello che noi abbiamo dovuto offrire il 30 gennaio. Ora, mezzo punto percentuale non è tantissimo, ma è abbastanza, perché stiamo parlando di un riferimento rispetto al 30 gennaio scorso, scende anche in maniera ancora più consistente il tasso per i BTP a 5 anni, ossia lo scorso 30 gennaio abbiamo dovuto offrire un rendimento del 5,40%, oggi invece solo del 4,20%. Chiaramente, visto che paghiamo 70 miliardi di euro l'anno di interessi sul debito, ogni punto percentuale è anche mezzo punto di calo sui rendimenti, significa risparmiare soldi per le nostre finanze pubbliche. E allora, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Come vanno il petrolio? Il petrolio è in leggero calo a New York, ma è sempre forte, è $107.82 al barile, l'oro è a $1.771 l'oncia, e poi l'Unicef oggi ha stimato quello che sarà la fine dell'impatto della crisi dal 2007 fino alla fine del 2010, cioè che cosa ci è costato in quei tre anni. Beh, si sono creati 30 milioni di disoccupati in più, e soprattutto, questo purtroppo lo sappiamo perché ne parliamo molte volte, nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Domani nel frattempo vi sarà una seconda asta di liquidità della Banca Centrale Europea, quindi una nuova fornitura limitata di liquidità alle banche da parte della BCE, sempre a un tasso dell'1%. Le banche italiane ricorreranno al prestito della Banca Centrale Europea in misura importante, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco da Città del Messico, e questo, ha detto Visco, servirà a consentire di mantenere il credito all'economia attraverso impieghi e investimenti, ma anche attraverso l'acquisto di titoli di Stato. Devo dire che per ora quello che si è visto sono solo gli acquisti di titoli di Stato, perché noi continuiamo a ricevere segnalazioni di imprenditori, artigiani, commercianti che hanno difficoltà a rinnovare il credito bancario, a ottenerne uno nuovo, a mantenere le condizioni di prima. E poi, per dare impulso all'evasione fiscale, questa agenzia è bellissima perché l'ANSA chiaramente ha fatto un refuso, scrive: per dare impulso all'evasione, io immagino che la frase sia per dare impulso alla lotta all'evasione, a meno che non sia cambiata la linea del governo improvvisamente, ma per dare impulso alla lotta all'evasione, il premier Mario Monti ha riunito oggi una task force in via 20 settembre, hanno partecipato tutti i vertici dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia e del Dicastero, faremo riunioni periodiche, ha poi commentato Monti. Nel 2011 abbiamo recuperato 12 miliardi, beh, non solo loro, il governo è entrato in carica a novembre. Faremo di più nel 2012, con il recupero dell'evasione, ha detto Monti, vi sarà più equità, se tutti pagano le tasse vi saranno tasse più leggere per tutti. E di evasione ha parlato anche il comandante della Guardia di Finanza, il generale Nino Di Paolo, in audizione alla Commissione Finanze della Camera. Ha detto l'evasione è di tutta evidenza, ma l'evasione è un freno allo sviluppo del paese, genera gravi distorsioni di mercato e iniquità sociale. E poi ogni anno denunciamo 5.500 persone per fatture false, una delle frodi più insidiose e diffuse. E tra l'altro queste persone, questi 5.500 denunciati, sono responsabili per aver evaso l'IVA per circa 2 miliardi e mezzo l'anno, il 40% dell'imposta evasa e scoperta ogni anno. E poi ha ricordato l'attività delle Fiamme Gialle, ascoltiamo questo passaggio. Le indagini finanziarie restano il pilastro fondamentale per individuare la vera ricchezza, e non solo per fini antievasivi, ma anche perché dalla ricchezza si può arrivare anche a soggetti sensibili. Latitanti, truffatori, corruttori sono stati individuati partendo dalla ricchezza, dall'inseguimento dei flussi finanziari. Ricordo anche che la Guardia di Finanza in questo costituisce un importante polo gravitazionale di tutti gli elementi informativi che comprovano violazioni tributarie e non, perché oggi le condotte che sono sempre più presenti nella nostra società, non solo all'interno del nostro paese ma anche all'estero, sono condotte plurioffensive. No, c'è sempre un filo conduttore fra l'evasione, la frode, la corruzione e così via. E quindi questo è molto importante, perché da queste attività, anche di natura diversa dal piano amministrativo, cioè alludo soprattutto all'attività di polizia giudiziaria, si possono trarre utili elementi informativi per trarre anche conseguenze fiscali. Molti di voi ci stanno chiedendo perché la Banca Centrale Europea tiene conto di Standard & Poor's. Ne abbiamo parlato con il numero uno di Standard & Poor's, la dottoressa Pierdicchi, la settimana scorsa. Perché, ed è questo dove secondo me qualche ragione ce l'hanno le agenzie di rating, cioè siamo noi europei che abbiamo anche dato un ruolo importantissimo a queste agenzie di rating. La Banca Centrale Europea non può accettare come garanzia titoli di qualità come SD, cioè semi default, per cui bisognerà cambiare, o bisognerebbe cambiare le norme anche da questo punto di vista, sennò è chiaro che qualunque giudizio dell'agenzia di rating poi diventa fondamentale nell'attività di prestito anche della Banca Centrale Europea, trovando altre formule. Dopodiché avete ragione anche nel dire, ma che se ne accorge adesso la Banca Centrale Europea, lo so, ma è la norma che lo prevede. Continuiamo sull'evasione fiscale, perché a Firenze su 574 esercizi commerciali controllati nel corso di una settimana, uno su tre, cioè il 36% per la precisione, sono 205, non dava lo scontrino. In due casi non c'era neanche un registratore di cassa. Ancora un dato sui salari, visto che parlavamo ieri della classifica, poi lì è stato un po' corretto, ma insomma, che vede i nostri salari fermi ai posti più bassi a livello europeo, salari lordi. Oggi lì è stato comunicato che le retribuzioni lorde nel 2011 sono aumentate dello 0,7%, il costo del lavoro è aumentato dello 0,8%, il punto è che l'inflazione cresce, i prezzi sono cresciuti del 2,8%, quindi si è eroso altro potere d'acquisto, perché se i salari aumentano in media dello 0,7%, l'inflazione fa 2,8%, manca 2 punti percentuali. In realtà, se si va a scorporare il dato, si vede che gli stipendi dei lavoratori delle grandi imprese industriali sono cresciuti del 2,5%, mentre gli stipendi dei lavoratori delle grandi imprese dei servizi hanno fatto meno 0,4%. E adesso roviniamo la giornata ai nostri ascoltatori, perché c'è una nuova puntata della crisi, che per alcuni è la crisi vera, cioè per la maggior parte di noi, per altri è una crisi un po' strana. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, è di nuovo la Corte dei Conti a denunciare il costo sproporzionato dei soldi che sindaci, governatori delle regioni, presidenti di provincia, direttori di aziende sanitarie, rettori delle università e manager delle società partecipate spendono per affidare incarichi, consulenze a 250.000 professionisti. Avete capito bene? 250.000 professionisti a cui ogni anno vengono affidate consulenze da parte degli enti locali oppure delle ASL. Ora, quindi queste saranno importantissime, ci mancherebbe, però è chiaro che 250.000 professionisti coinvolti significa anche, in alcuni casi, così, consulenze fatte ad arte per ottenere scambi, favori, consenso. Spendono 2 miliardi di euro gli enti locali su questo. Allora, io capisco tutte le consulenze del mondo, però mi dovete spiegare perché in Sicilia si sono pagate come consulenze esterne il suonatore di piano bar come professionista, il velista amatore, l'organista dei matrimoni, lo sciatore, praticamente, che in Sicilia immagino venga dall'Etna, la regione siciliana ha affidato contratti di consulenza per la ricostruzione delle zone alluvionate nel Messinese anche a queste persone, 15 contratti per una spesa di 400.000 euro. E ancora, mica c'è solo la Sicilia, perché la Lombardia, regione virtuosa secondo molti, per molte cose, spende per le consulenze 300 milioni di euro l'anno. Nel campionario si cita per esempio il segretario comunale promosso a direttore generale e il consulente che espletava le sue funzioni al telefono. Ora, io capisco che la consulenza spesso sia un atto verbale, ma proprio al telefono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ancora, continuiamo. L'Emilia Romagna, 231 milioni di euro spesi in consulenze. E poi molti doppi lavoristi in nero per un danno erariale che la Guardia di Finanza ha stimato in 22 milioni. Il professore universitario che contemporaneamente era anche amministratore delegato di una società, un altro dipendente pubblico che è riuscito a diventare consulente dello stesso ente da cui riceve lo stipendio. Io questo lo vorrei intervistare, perché riuscire da dipendente a diventare anche consulente dell'ufficio per cui lavori è bellissimo, ti fai le domande e ti dai le risposte. E poi il Lazio al quarto posto dopo il Veneto con 144 milioni di euro spesi per consulenze. Insomma, c'è di tutto dentro, casi in cui gli esperti vengono pagati due volte. In Liguria, per esempio, la Giunta ha pagato due volte per avere lo stesso progetto il professor Giovanni Valotti nel 2001 ebbe l'incarico di sviluppare la riorganizzazione dell'ente. Termina il suo incarico e il suo compito due anni dopo con una relazione e costa 72.500 euro. Direte, caro, però almeno ha fatto la relazione. No, perché nel 2007 la Regione Liguria chiede un'altra consulenza allo stesso Valotti sullo stesso oggetto con una relazione che era praticamente identica. Chiudiamo con la Campania. La Corte dei Conti campana ha fatto pervenire ai vertici della ex AS 5 di Castellammare di Stabia un invito a dedurre, cioè un avviso di garanzia, per le spese legali sostenute fino al 2008. Praticamente l'accusa ai dirigenti è quella di essersi rivolti ad avvocati esterni all'ente che hanno ottenuto parcelle, interessi compresi, per 23 milioni di euro. Anche qui capiamo le cause, ma 23 milioni di euro di parcelle pagate dagli avvocati. Vabbè, andiamo al primo tema di questa puntata. 349-238-6666, la moratoria sul credito sottoscritta oggi al Ministero dello Sviluppo Economico. Appunto, presenti al ministro Corrado Passera, il vice ministro dell'economia Vittorio Grilli, il documento sulla moratoria, che vuol dire la sospensione, sospensione non dei prestiti, ma adesso la chiariremo, degli interessi, per le piccole e medie imprese, concordata tra ABI, quindi banche italiane, e Confindustria, ma anche Rete Imprese per l'Italia ed altre associazioni di imprese. L'accordo prevede appunto una moratoria di 12 mesi per i mutui e di 6 mesi per il leasing, quindi praticamente fino al 31 dicembre 2012 un'impresa potrà chiedere la sospensione delle rate di pagamento, che dovrebbe permettere un po' di respiro alle imprese. In caso di sospensione i tassi resteranno invariati rispetto al contratto iniziale. Le imprese che hanno già aderito alla prima moratoria, quella del 2009, e poi rinnovata negli anni successivi, potranno comunque beneficiare di un allungamento delle rate per l'importo residuo. Quale sarà la richiesta? Secondo le stime dovrebbe arrivare a 65 miliardi di euro, che è più o meno la stima di tutto ciò che lo Stato deve alle imprese come ritardo dei pagamenti. Ascoltiamo il ministro Passera su questo punto. Il credito è uno dei pilastri, uno dei pezzi, uno dei capitoli fondamentali del piano per rendere la nostra economia e la nostra società più capace di crescere strutturalmente. Credito vuol dire cose molto concrete, su alcune di queste possono agire le banche, su alcune di queste possono agire anche le stesse imprese, su molti di questi possono agire anche e devono agire governo e Parlamento. Quando parlo di banche più capaci e più in grado di fare credito, mi riferisco alla liquidità, e qui non c'è dubbio che quello che ha fatto la BCE in questi ultimi mesi e sta facendo anche in questi giorni è fondamentale. Il nostro Paese, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, ha pure fatto la sua parte e continua a fare la sua parte per dare liquidità anche indirettamente alle banche. La liquidità però è solo uno dei capitoli. Poi c'è il tema capitale. Il tema capitale è un tema su cui molte banche italiane hanno agito per tempo, altre sono arrivate successivamente, poi tutte hanno avuto l'impatto negativo di normative che si sono dimostrate sicuramente non sagge dal punto di vista dell'economia reale, come sono state quelle dell'EBA, però ci stiamo passando attraverso, anche perché avendo il Paese dimostrato di saper recuperare in termini di credibilità, probabilmente anche quell'impatto negativo che è venuto dall'EBA col tempo riusciremo a togliercelo. E poi le parti coinvolte, sentiamo prima le banche, quindi il presidente dell'ABI Giuseppe Mussari. È un accordo con il quale le banche italiane mettono a disposizione la loro forza, la loro stabilità, si assumono il sacrificio di rinviare la riscossione di pagamenti importanti alla luce di un ciclo economico non particolarmente favorevole. Lo abbiamo fatto nel 2009 con ottimi risultati e lo rifacciamo oggi. A noi sembra questo il modo più chiaro e anche più semplice da comprendere di come l'industria bancaria italiana possa avere un futuro positivo, solo se c'è un futuro positivo, così come ci sarà per la piccola e media industria italiana. Noi abbiamo banche che sono nate per servire le imprese e le famiglie, e nel servire le imprese e le famiglie sono diventate grandi, stabili, non sono costate un euro al nostro contribuente, a differenza di quello che è successo in altri paesi europei. Vorremmo che questo modello di fare banca potesse continuare a vivere, potesse continuare a prosperare. E non è possibile rispetto a questo che ci siano misure che costringano le banche a fare servizi gratuiti. Sì, quest'ultimo riferimento di Mussari era al conto corrente gratuito per i pensionati che sono poveri. Insomma. Io insomma devo dire che all'estero non c'è bisogno di fare una legge per questo. A me, io capisco, le banche dicono che il costo per loro potrebbe essere di 1 miliardo, però insomma non si può neanche immaginare che chi percepisce 600, 700, 800, 900 euro di pensione debba sostenere i costi del conto corrente. Trovate una soluzione, ma non proponete i costi che già paghiamo noi, che per fortuna abbiamo uno stipendio diverso da chi becca 700 euro di pensione. Su. La presidente Confindustria, Anna Marcegaglia, sempre sulla moratoria. Ci sembra un set di strumenti importanti, ovviamente non risolvono il problema del credit card, ma danno un sollievo significativo al nostro sistema delle piccole imprese. Sono d'accordo con l'avvocato Mussari che noi diamo un giudizio molto positivo di questa scelta che il sistema bancario fa di partecipare, di aiutare, di supportare il sistema delle imprese. Questo è possibile grazie anche all'azionariato delle banche italiane. L'idea è di continuare a lavorare insieme anche dopo la firma di questa moratoria. C'è certamente questo tema importante dello smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, così come stiamo anche ragionando su come riavviare una forma di finanziamento per gli investimenti. Oggi i finanziamenti a medio termine sono molto rari e molto costosi. Penso sia interessante provare, magari anche con la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, a mettere in piedi strumenti a supporto degli investimenti. Allora, adesso c'è il metodo, la pubblicità, poi commentiamo borsa e parliamo anche della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e poi degli stipendi dei dei top manager, dei manager pubblici, con chi, secondo il ministro Patroni Griffi e il presidente del Consiglio Mario Monti, dovrebbe mettere ordine in quella giungla di stipendi d'oro. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17.38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, poi Fiat. Marchionne, in quanto presidente dell'Associazione Europea dei Costruttori d'Auto, ha parlato a tutto campo, e poi Banca Popolare di Emilia Romagna e il presidente del Civit, Antonio Martone, al secolo anche papà di Michel Martone, vice ministro del welfare. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Corriere sulle 24 ore, allora borsa sia. Più 0,23% alla fine Milano, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,5%, molto volatili oggi le borse. Sì, assolutamente, oggi le borse hanno vissuto una giornata estremamente volatile, soprattutto a partire dal primo pomeriggio, quando sono arrivati i dati americani. Vi sono stati quattro dati, due sopra le attese e due sotto le previsioni del mercato, che quindi hanno influenzato le borse. Ricordiamo poi che i mercati sono in attesa domani della seconda maxi asta della Banca Centrale Europea, a un tasso dell'1% per 3 anni, quindi i riflettori sono puntati comunque su domani. Eh sì, l'altra asta a liquidità è limitata. Ancora, tra i titoli saranno mosse bene le barche, poi le banche poi hanno ritracciato un po', tranne Monte dei Paschi più 2,80% e la Pop Milano più 1,45%, la Pop Emilia Romagna, di cui parliamo tra un attimo, più 1,47%, WeBanca più 1,30%, UniCredit più 0,95%. Sul fronte opposto invece Mediaset male, meno 2,15%. Sì, allora Mediaset ha perso terreno oggi in borsa, in particolare in attesa dei conti che verranno pubblicati il prossimo 20 marzo. Il mercato sta iniziando a ipotizzare un possibile taglio del dividendo, come deciso dalla controllata spagnola Mediaset Espana, che ha dimezzato al 50% il payout sul dividendo. Dall'altra parte, inoltre, gli esperti temono anche, come sempre, come ciclicamente, la debolezza del mercato pubblicitario in Italia e in Spagna, e quindi il titolo oggi ha perso terreno. Ancora Finmeccanica, qui ha contribuito tra virgolette anche il Sole 24 Ore, perde l'1,40% oggi. Sì, infatti oggi il Sole 24 Ore ha scritto che il 2011 si chiuderà con perdite record a 2 miliardi di euro a causa delle svalutazioni decise dal nuovo vertice. C'è attesa quindi per la pubblicazione dei conti, che avverrà il prossimo 14 marzo. Bisogna inoltre ricordare che ieri alcuni quotidiani hanno riferito che il Ministero della Difesa indiano ha aperto delle indagini per verificare se furono pagate delle tangenti per la vendita di alcuni elicotteri nel 2010, ma Finmeccanica ha già detto di non essere coinvolta. Sì, va bene, ho già fatto la battuta ieri sull'acquisto del caccia francese Rafale da parte del ministero indiano, non torno sul tema. Tenaris negativa, meno 0,70%, Telecom anche oggi è debole, meno 1,80%. Sì, assolutamente, Telecom ha perso l'1,80%, ma bisogna ricordare che il titolo ha guadagnato il 9,8% in due sedute dopo la pubblicazione dei conti, che sono stati apprezzati dal mercato nonostante l'annuncio del taglio del dividendo, quindi oggi si può parlare essenzialmente di realizzi per il titolo. ST Microelectronics, tra i titoli che meglio si sono comportati, è in assoluto quello che ha fatto il balzo più significativo, più 7%. Sì, allora gli operatori... Ancora la joint venture con Ericsson? No. Sì, diciamo che nel mirino del mercato c'è sempre la joint venture ST Ericsson, ed sono sostanzialmente le notizie sulla joint venture che alla fine condizionano il titolo. Oggi praticamente la notizia è relativa all'aggiudicazione di un contratto con Samsung. Inoltre il mercato si aspetta che la joint venture annuncerà nuovi piani strategici ad aprile, e che ST, qui la società, aumenti le vendite del 4% all'anno nel 2014-2021 e del 3% successivamente, quindi una serie di notizie che hanno contribuito al rialzo del titolo. Ancora, veniamo ai migliori e peggiori. Premafin Finanziaria, quindi la holding che controlla Fondiaria SAI e Milano Assicurazioni, che fa capo alla famiglia Ligresti, meno 12,5%, Milano Assicurazioni meno 4,70% e anche Unipol sul privilegio per del 4,50%. Sembrerebbe in questo modo che si stia sgonfiando l'ipotesi di una lotta tra Unipol da una parte e Sator Pallaggio dall'altra. Sì, infatti era quello che aveva sostenuto sostanzialmente il titolo nei giorni scorsi. Il mercato a questo punto scommette che la famiglia Ligresti, che sembra compatta, rifiuterà l'offerta di Palladio, quindi, e di Sator andrà avanti con il piano proposto da Unipol. La famiglia ha infatti dato pieno sostegno all'operazione con Unipol. Dobbiamo ricordare che giovedì si riunirà il consiglio di amministrazione di Prema a fine per valutare comunque l'offerta messa sul piatto da Palladio e Sator, mentre ieri Prema fine e le banche hanno messo nero su bianco il piano di rimborso del debito. Poi c'è Fiat. Fiat alla fine guadagna lo 0,20%, guadagnava di più durante la seduta. Qui è appena arrivata una notizia, firmata la lettera di intenti in Russia con Sberbank, quindi di un secondo fa la notizia. La banca russa infatti intende finanziare il progetto per la produzione e distribuzione di autovetture commerciali e veicoli commerciali leggeri in Russia, e vorrebbe acquisire la Sberbank il 20% della joint venture di Fiat in Russia. Saranno prodotte le Jeep con un investimento massimo di 850 milioni di euro. Allora, nel ringraziare Livia Zancaner, ascoltiamo anche cosa ha detto oggi Sergio Marchione da Bruxelles sulla presenza di Fiat in Italia. Noi avevamo intenzione di stabilire una politica industriale che dava l'opportunità agli stabilimenti italiani, se fossimo stati capaci a raggiungere un livello di produttività adeguata per competere a livello internazionale, di utilizzare quell'infrastruttura là per esportare in altri paesi, intorno al mondo, incluso l'America, in cui adesso noi abbiamo accesso attraverso la crisi. Quindi un'opportunità enorme che la Fiat si è creata andando in America e disposta a mettere a disposizione del paese. Ma lo deve fare con condizioni estremamente chiare, non possiamo confonderci, io non posso continuare a perdere soldi in Europa e poi semplicemente per mantenere un sistema industriale in piedi che poi economicamente non ha base. Così Sergio Marchionne. Ora, noi abbiamo lodato molte volte Sergio Marchionne, ma Andrea Malan del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Cioè, però adesso io... Non è che Marchionne ogni settimana ci deve dire ma restiamo a certe condizioni. Io avevo capito che chiuso a Termini Imerese, chiusi i contratti nuovi a Pomigliano e non solo lì, e quindi con le nuove forme contrattuali, quelle che non sono state firmate dalla FIOM, a questo punto c'erano tutte le condizioni per restare in Italia. E invece già la settimana scorsa, poi oggi di nuovo, no ma vediamo. Non è che stia giocando un po' al tira e molla Marchionne? Direi di sì, il problema è quello dillo, che... Bravo Malan, bravo. Il problema è quello che è stato evidenziato, che è emerso Le ultime righe dell'intervistona che Marchionne ha rilasciato al Corriere della Sera. Che giorno fa al Corriere della Sera, e cioè ha detto: se non riusciamo a esportare in America, ci sono due stabilimenti di troppo in Italia. Ora, il se non riusciamo a esportare in America dipende da molti fattori, cioè dipende da quanto Fiat investirà in nuovi modelli da esportare in America. Dipenderà da quanto il mercato americano sarà ricettivo rispetto a questi modelli, perché ovviamente non basta dire lo voglio esportare, lo produco per riuscire a venderlo. Quindi ci sono una serie di fattori, e tra questi non necessariamente sembra esserci la condizione della produttività in Italia, anche perché il livello produttivo degli stabilimenti italiani attualmente è talmente basso, perché ci sono ancora alcuni modelli vecchi che non vendono, altri stabilimenti sono alla vigilia di un rinnovo completo, come teoricamente Mirafiori, dove però sappiamo che il rinnovo è slittato prima di un anno, poi di due, attualmente è fissato per la fine dell'anno prossimo, se non per i primi del 2014. Quindi ci sono ancora moltissime incognite, la più grossa delle quali è forse quella che Marchionne stesso ha ribadito oggi, cioè il mercato europeo va malissimo, cioè va bene esportare negli Stati Uniti, però quello che è successo in questi anni alla Fiat, più che ad altri costruttori, diciamo un po' anche alla Peugeot, è che c'è stato un crollo di quote in Europa e un crollo di vendite in Europa dovuto all'affossamento del mercato italiano ed europeo in generale, all'andamento abbastanza deludente. No, ma quello che dico io, cioè va benissimo, nessuno chiede a Marchionne di fare beneficenza, infatti una fabbrica la va a fare in Serbia. Però basterebbe essere coerente, cioè non è che poi l'anno scorso, ripeteci fino allo sfinimento, che tu hai grossi progetti sull'Italia, il progetto Fabbrica Italia. Quanti miliardi di investimento erano quel progetto? Diciamo che non si è mai riuscito a calcolare bene. La cifra che era circolata era di 20 miliardi. 20 miliardi, sì, anch'io ricordavo sui 20 miliardi. Fin dall'inizio erano un po' meno e poi sicuramente adesso sono diventati parecchio meno. Ho capito, però tu hai il progetto Fabbrica Italia, che però metti in piedi solo se i sindacati accettano un nuovo contratto. E su questo rompi con la FIOM, esci da Confindustria, va benissimo, sono libere scelte. Però poi, una volta che hai fatto un nuovo contratto, fai anche gli investimenti. No, adesso veniamo a scoprire che se la Fiat non vende in America, come se dipendesse, diciamo, da Pomigliano d'Arco, o se gli americani vogliono comprarsi le Fiat Chrysler, allora devi chiudere due stabilimenti. Adesso di nuovo, avete appena sentito l'audio, dice, ma sì, vediamo, perché non è che possiamo stare qua solo per fare... Oh, dilla tutta, comunque, traffico e poi torniamo sul tema. Di nuovo in diretta, dunque Andrea Malan, un ascoltatore scrive, ma insomma sono due anni che Marchionne la sta dicendo tutta e lei, cioè riferito a me, che sono duro, che è duro di comprendonio. Sicuramente è vero che sono duro di comprendonio, però io non ho visto un Marchionne così lineare, cioè tutti l'abbiamo seguito perlomeno in questo programma quando chiedeva un passo diverso, una svolta nelle relazioni industriali, la possibilità che Fiat potesse essere messa in grado di competere come le altre case automobilistiche. Ma qua non si parla più di contratti e di sindacato, qua si parla di mercato, se ho ben capito. Diciamo che per citare un caso su cui non è stato troppo lineare, basta citare Mirafiori due anni fa doveva produrre la 500 Large che viene presentata adesso a Ginevra e che poi è andata in Serbia, poi si è passati a un grosso SUV Jeep e Alfa Romeo e poi si è passati, questa è l'ultima versione, a un piccolo SUV, sempre Jeep e con marchio Fiat, in sostanza l'erede di quella che adesso è la 16. Quindi abbiamo cambiato tre piani in due anni e il piano attuale dovrebbe decollare l'anno prossimo, ma diciamo non c'è ancora la certezza al 100%. Quindi sicuramente ci sono stati dei cambi di rotta derivanti all'inizio dai problemi sindacali, poi dai problemi finanziari. Il problema è che molti concorrenti non stanno fermi e questo spiega in parte la perdita di quote di mercato. Direi che quest'anno, al di là dei problemi che ci saranno, sicuramente sia Fiat che Peugeot che Opel, diciamo tutti i generalisti, i costruttori che non hanno modelli di lusso di gamma alta in Europa, sono destinati a soffrire, Fiat in particolare perché il mercato italiano è uno di quelli messi peggio. E quindi la tentazione per Marchionne sarà anche quella di, per evitare un deterioramento dei conti eccessivo, sarà di risparmiare ancora sugli investimenti, quindi il rischio che vengano ancora rinviati gli investimenti sui prodotti, generando poi un circolo vizioso, perché è ovvio che con prodotti che invecchiano tenere le posizioni sul mercato è sempre più difficile. No, per carità, però basta non dare sempre la colpa all'Italia, perché c'è un atteggiamento, poi lui nell'intervista che tu citavi al Corriere dice no, non è vero, chi mi accusa di essere anti-italiano, però la sensazione che si è avuta è che Marchionne prima rivendicasse i contratti non in linea con quelli europei e adesso li ha avuti, la FIOM è fuori, lui ha avuto i contratti, poi è uscito anche da Confindustria perché diceva non è quello, non gli piaceva l'accordo fatto tra Confindustria e sindacati e va bene. Adesso però basta dare la colpa all'Italia, cioè diamo la colpa anche alla Fiat, se i modelli non li hai, se non tirano, insomma, guardati in casa, non è sempre colpa di sto paese, che tra l'altro prima che arrivasse Marchionne qualche contributo alla Fiat l'ha in passato e quindi agli azionisti l'ha dato, non dimentichiamoci i vari... Diciamo che dal punto, se posso aggiungere un'ultima osservazione, per quanto riguarda le responsabilità o i fatti dovuti alla strategia Fiat di questi anni che non hanno permesso di tenere meglio sul mercato, c'è sicuramente quello relativo ad Alfa Romeo. Alfa Romeo anch'essa è stata, diciamo, oggetto di una serie di cambi di strategia, si vende, non si vende, si promuove, si porta negli Stati Uniti, non si porta più, adesso si rilancia, con due modelli lanciati, la Mito e la Giulietta, negli 8 anni in cui Marchionne è stato all'ingotto, più la 159 che però è già stata pensata prima, e con un posizionamento strategico che non è cambiato. Ora, secondo molti analisti, sarebbe davvero l'Alfa Romeo l'arma possibile di esportazione verso gli Stati Uniti e di maggiore riempimento degli impianti italiani, perché da un paese ha costi relativamente elevati del lavoro, non elevati in assoluto, sicuramente più bassi degli Stati Uniti, più bassi della Germania, ma da un paese comunque dell'Europa occidentale si possono esportare probabilmente molto più facilmente auto Alfa Romeo che non una piccola Fiat o una Fiat medio piccola. E questo è uno dei punti che rimangono tuttora aperti. Anche su Alfa Romeo ci sono stati dei grandi proclami strategici, ma per ora il futuro è incerto. Basti pensare che si è detto che la Giulia, il modello chiave dei prossimi anni, che dovrebbe fare da leva per il rientro negli Stati Uniti, potrebbe anche essere prodotta appunto negli Stati Uniti. No, ma dico, per carità, ogni manager ha il diritto di modificare le sue strategie, ci mancherebbe. Basta non cadere, visto che lui si vanta di avere pochi dei vizi italiani, non cadere nel classico vizio italiano di dare sempre la colpa a qualcun altro. Possiamo risentire Marchionne di oggi da Bruxelles, proprio nella parte finale, tanto dura 20 secondi, ma proprio la parte finale che mi ha lasciato così un po' sorpreso. Noi avevamo intenzione di stabilire una politica industriale che dava l'opportunità agli stabilimenti italiani, se fossimo stati capaci a raggiungere un livello di produttività adeguata per competere a livello internazionale, di utilizzare quell'infrastruttura là per esportare in altri paesi, intorno al mondo, incluso l'America, in cui adesso noi abbiamo accesso attraverso la crisi. Quindi un'opportunità enorme che la Fiat si è creata andando in America e disposta a mettere a disposizione del paese. Ma lo deve fare con condizioni estremamente chiare, non possiamo confonderci, io non posso continuare a perdere soldi in Europa e poi semplicemente per mantenere un sistema industriale in piedi che poi economicamente non ha base. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non ve la prendete con i nostri tecnici, hanno avuto l'ordine di tagliare, di interrompere la trasmissione per rispettare i tempi. Lo so, è molto brutale, molti sorridono perché abbiamo interrotto un ragionamento sulla Fiat, è partita la pubblicità della Mercedes, sembrava fatta apposta, ma noi non sappiamo che pubblicità c'è, lo dico seriamente, non ci riguarda, né mi interessa sapere che pubblicità c'è. Mentre su Marchionne vedo che alcuni scrivono, ma insomma qual è il problema se un imprenditore o un manager come nel caso di Marchionne dice, ma insomma io se non ci sto dentro quei costi chiudo le fabbriche. Il problema è che non puoi cambiare idea ogni anno, cioè non puoi fare la campagna prima solo per il problema delle relazioni industriali del sindacato. Superato quello, si scopre che non è solo la Fiom il problema, è che adesso le fabbriche italiane restano aperte se vendono in America, e poi cambi strategie, lo ricordava bene Andrea Malan, dovevi produrre alcune vetture a Mirafiori, poi le hai spostate in Serbia. Cioè, voglio dire, dilla tutta e diciamola tutta, ma non diamo sempre la colpa a questa Italia. Voglio dire, c'era anche prima l'Italia. E poi, la Fiat sta perdendo più dei concorrenti sulle immatricolazioni. Questo lo si può dire. Allora, lì la colpa non è del sindacato, abbia pazienza anche Marchionne, la colpa è che forse i modelli stanno arrivando col contagocce. Comunque, cambiamo tema e parliamo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e partiamo da quello che è accaduto 10 mesi fa. Lo scorso aprile venne convocata l'assemblea degli azionisti, la più affollata nella storia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, convocata per la nomina dei nuovi consiglieri. Sentite come andò a finire lo scorso aprile. Insomma, poi c'è chi dice che il mondo della finanza è vellutato, paludato, fatto di passi felpati. Sono volati più che gli stracci proprio le manate in quella famosa assemblea della Banca Popolare Emilia Romagna. Il caso l'abbiamo già spiegato, il presidente decide di censurare, di terminare, di mettere uno stop agli interventi della lista di minoranza guidata da Giampiero Samori, e i 250-300 azionisti che ancora devono parlare, appunto, passarono alle vie di fatto. di solito i carabinieri, cioè, se arrivano in una banca, in un'assemblea, è per reati, non per ordine pubblico, ma anche questo abbiamo visto in questo paese. In realtà poi venerdì scorso su questi fatti si è pronunciato il Tribunale di Modena, perché la lista di minoranza ha fatto ricorso e ha dato ragione alla lista di minoranza BPR Futura, annullando l'elezione dei 6 consiglieri di tutti di altre liste e quindi praticamente azzerando di nuovo il consiglio di amministrazione della banca. La prossima assemblea è in calendario per il 21 aprile, deve nominare altri 7 consiglieri, ma sembra nel frattempo che si sia arrivati a una soluzione. Una soluzione che ha visto come, diciamo, garante, come elemento terzo in grado di rasserenare gli animi tra la lista di maggioranza e la lista di minoranza, Romano Minozzi. Romano Minozzi non è solo il re delle ceramiche di Sassuolo, ma è anche uno dei principali azionisti di Terna al 5%, di Snam un po' meno dell'1% e di Eni anche un po' meno dell'1% e poi ha una partecipazione in Mediobanca. E quindi il leader mondiale della ceramica, Minozzi, arriva a fare il pacificatore, un uomo preso per essere sopra le parti. Chi ha gestito, chi ha mediato su questa situazione è l'amministratore delegato della Piaggio Aereo, ma in questo caso come azionista della BPR, l'avvocato Alberto Galassi. Buonasera, avvocato. Buonasera, dottore. Dunque, questa mediazione lei l'ha operata prima che arrivasse la settimana scorsa la sentenza del Tribunale di Modena, giusto? Sì, la mediazione è cominciata un mese e mezzo fa, partendo da un presupposto che lei ha ricordato prima: non era più tollerabile un'assemblea con toni, oso dire, da stadio, come quelle a cui abbiamo assistito l'anno scorso, e non è più tollerabile in un momento come questo, difficilissimo per l'economia, per le famiglie, per le imprese, per le banche, una situazione di profonda divisione. Scusi, ma l'oggetto del contendere, al di là del fatto che quando c'è una lista di minoranza, una lista di maggioranza... Non è la prima volta che le vediamo nelle banche popolari, ripeto, il mondo delle popolari è un mondo fatto di voto capitario, cioè ogni testa è un voto al di là delle azioni che hai, soglie massime di azioni disponibili, cioè ogni soggetto non può superare una certa soglia di capitale, per cui è un mondo particolare. Però l'oggetto del contendere qual era? L'oggetto del contendere nello specifico era il diritto leso asseritamente di alcuni azionisti per non aver potuto parlare prima dell'inizio delle votazioni. E quindi di fatto, avendo impedito, poi non voglio scendere nei dettagli perché non c'ero, è una delle capacità che ho avuto di rimettere sulla carreggiata il buon senso diffuso è stato il fatto che non ero presente, non ero coinvolto nelle vicende passate, sono prestato, come ha ricordato lei, dall'aeronautica a questa vicenda. E in due parole si parlava di una lesione di un diritto di parola e quindi il giudice del Tribunale di Modena ha riconosciuto che questo diritto è stato leso, in primo grado ovviamente, non è una sentenza definitiva, la cui esecutorietà poi è discutibile, discussa, si vedrà, i legali faranno il loro lavoro, e nel frattempo quindi diciamo che c'è una posizione quasi sub iudice per alcuni consiglieri, sono solo 6 su 19, quindi non è che il consiglio sia annullato, non sia in grado di andare avanti. Però detto questo, è una situazione abbastanza anomala, e a prescindere dalla sentenza che è uscita la settimana scorsa, da un mese e mezzo a questa parte, attorno alla figura, come ha ricordato lei, dottor Minozzi, che era in consiglio di amministrazione di Ferrari, quindi buon conoscente di Piero Ferrari, vicepresidente della banca e presidente di Piaggio Aero, ecco il collegamento con il sottoscritto, è partito questa volontà di provare, essendo una persona al di sopra di un giudizio e schieramento, abbiamo provato a costruire un consenso attorno a questa figura, e la cosa ci ha portato a presentare oggi questa lista che si chiama BPR Avanti. Avanti perché serve a guardare avanti e non guardare indietro, avanti perché viene la banca prima di tutto, e avanti, me lo perdoni, anche perché il nome dell'aeroplano che produco mi porta bene, il P180 Avanti, quindi mi sono permesso di ricordarmelo e di riportarmelo con me con un piccolo forzatura. No, voglio dire, se non aveste trovato una soluzione, vediamo poi quanto sarà duratura, le prossime liste si potranno chiamare BPR Fighters, BPR Supporters, BPR Fossa dei Leoni, Eagles, no, perché arrivare alle manate e agli spintoni in un'assemblea di azionisti, va bene il calore, la partecipazione, perché il mondo delle popolari è un mondo che sta sul territorio, ma insomma, qui più che il territorio volava la terra. Ma tra l'altro, sapete, chi ci ascolta lo sa, quanto così scettici noi siamo sull'applicazione dello statuto delle popolari, cioè voto capitario, quote bloccate, quando le popolari in realtà sono grandi banche quotate, BPR è quotata, la Pop Milano è quotata, cioè quell'istituto lì serve soprattutto per le banche più piccole, a nostro avviso più piccole, dove sì, tutti gli azionisti devono essere rappresentati al di là del peso delle azioni, ma quando sei quotato in borsa, di popolare in senso di cooperativistico, mutualistico, hai molto poco. Ma questo è un altro capitolo, la riforma poi si è arenata, la riforma che a suo tempo si cercò di fare sul mondo delle popolari. Adesso, con l'arrivo di Minozzi, mi sembra di capire che tutti hanno posato le armi, l'ascia di guerra e fumato il calumet della pace, ho capito bene? Diciamo che è l'inizio di un percorso, bisogna essere molto franchi, molto onesti verso gli azionisti, verso i soci, verso chi comunque, come ricordato lei, è una società quotata. Il dottor Minozzi fa parte di un processo di rinnovamento del Consiglio di Amministrazione, perché 3 consiglieri di amministrazione su 7 non sono stati riproposti da questa lista, quindi c'è un rinnovamento del Consiglio di Amministrazione e c'è anche una fase di trasparenza, perché un sindaco, che è il sindaco della società più importante, il dottor Minozzi, che è la Graniti Fiandre, una società che l'ha listata, e di fatto il suo presidente del collegio sindacale entra nel collegio sindacale della Popolare. Quindi A, da una parte un passaggio di rinnovamento indispensabile, B, un passaggio di trasparenza, perché a onor del vero la banca non ha nulla da nascondere. E tra l'altro, guardi, se posso permettere, male le vostre baruffe, ma l'importante è il rapporto con gli imprenditori e i clienti, cioè non è periodo, visto che c'è la stretta sul credito, le banche erogano poco, a tassi più alti, chiedono i rientri, anche di scannarvi tra di voi, dimenticandovi quello che è la funzione sociale di una banca popolare. Quindi in bocca al lupo all'avvocato Alberto Galassi e a tutti i soci della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nella speranza che a questo punto le baruffe modenesi siano concluse. Traffico, e poi parliamo con chi deve controllare gli stipendi dei top manager, Antonio Martone, papà del adesso più noto Michel Martone, che presiede il CIVIT, quindi il comitato che deve mettere un po' di ordine tra questi stipendi d'oro. 349-238-6666 per gli sms. Ultima parte di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Allora, visto che oggi è uscito anche il dato sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel 2011, che sono cresciute molto meno dell'inflazione, la media è più 0,7, l'inflazione è più 2,8, bene il settore industriale più 2,5%, sempre sotto il livello di inflazione, male il settore servizi meno 0,4%. Torniamo sul tema dei mega stipendi dei nostri manager pubblici. Presidente Antonio Martone, presidente del CIVIT, Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, buonasera. Buonasera. Io ho detto che lei è il padre dell'ormai più noto Michel Martone, che è vice ministro dell'economia, non si è offeso, vero? No, no, fino a qualche tempo fa c'era qualcuno mi chiedeva se lui era mio figlio, ormai accetto invece. Poi magari un commento lo dà anche su questo, però vorrei stare sul tema iniziale. Allora, al di là della mia non comprensione in senso proprio semantico del perché il direttore dei monopoli arrivi a guadagnare 536 mila euro lordi, il capo di stato maggiore 480 mila dell'esercito e anche della marina e anche dell'aeronautica, e perché guadagnano così tanto anche i numeri 2 e 3, il direttore generale del corpo forestale 362 mila 400 euro. Lei, se ho ben capito, ha avuto l'incarico dal ministro della funzione pubblica Patroni e Griffi di sollecitare tutti gli stipendi che non sono arrivati. Come va questa, cioè, il monitoraggio? Ecco, che il compito ce l'attribuisce la legge, ministro Patroni. Il ministro ha fatto moral suasion, ha detto mi tiri fuori, ma è vero che lei ha problemi a trovarle? Guardi, il problema è questo: la legge vuole che vengano pubblicati sui siti istituzionali i trattamenti economici complessivi che vengono percepiti da chiunque lavora per le pubbliche amministrazioni. Questo è il punto fondamentale. La Commissione ha già dal gennaio, noi ci siamo insediati, pensi, nel dicembre 2009, già nel gennaio 2010 abbiamo detto come devono essere inseriti questi dati sui siti istituzionali. Abbiamo rinnovato questo invito anche nel corso del 2011 e da ultimo con una delibera del 6 e del 5 gennaio. Perfetto. Ma perché? Il problema qual è? Il problema è, da un lato, di vedere, dato che le retribuzioni è quello che percepiscono i dipendenti dello Stato, soprattutto poi i vertici, diciamo i dirigenti, è la somma di una serie di componenti. Non soltanto c'è la retribuzione base, un trattamento di posizione, poi un trattamento variabile in relazione al risultato perseguito, ma ci possono poi essere tutta un'altra serie di indennità che vengono a essere corrisposte anche per lo svolgimento di incarichi di diverso tipo. E questo, il tentativo di imporre un limite, e come limite si è fatto riferimento, ma questo già lo fece la legge del 2007, la legge finanziaria del 2007, era stato preso come riferimento lo stipendio che percepisce il primo presidente della Corte di Cassazione, partendo secondo l'impostazione che sono 295.000 euro, sì, poi varia secondo l'anzianità del soggetto che lo diventa, ma oscilla fra 290.000 e 307-300.000 euro lordi l'anno. Insomma, mi dica una cosa, Mattone, perché non abbiamo tutto questo tempo, ma i dati gliel'hanno, poi gliel'hanno mandati? I dati li stanno mettendo sui siti istituzionali. C'è necessità di una verifica, perché lei capisce, lei calcoli che si tratta di andare a fare una verifica su tutti i siti, e soprattutto generalmente ci sono, però magari mancano i dati di 3 persone su 3.000, che sono i soggetti che effettivamente percepiscono sommerso. Che strano, cioè quelli che guadagnano di più hanno più difficoltà a riempire, sì, a riempire il modulo, ma pensa un po'. Senta, lei quanto guadagna? Io guadagno 180.000 euro lordi l'anno, quindi penso prendo 7.360 euro netti. Ma e poi li cumula con qualcos'altro? No, non li cumulo più. Non li cumulo più. Io l'ho accumulati per 3 mesi con lo stipendio di magistrato, ma poi sono andato in pensione, quindi io adesso ho la pensione, ma questo è un problema di diverso tipo. Io la pensione non è un problema se non quando è bassa, 600-700 euro. No, la sua mi sa che non ha questo problema. Senta, calcoli, io ho una pensione che corrisponde esattamente, se l'interessa, a 52 anni di contributi previdenziali, perché ho riscattato i 4 anni d'università, a 23 anni e mezzo ero magistrato ordinario, e quindi ho versato i contributi per 52 anni. No, no, ma non è lei l'oggetto. No, dico, comunque la pensione... Però mi dica una cosa, lei è arrivato a fare appello alla Guardia di Finanza, perché dice che da solo non le dico subito, non è un appello, ecco, la ringrazio di questa domanda. Io ho chiesto di poter utilizzare, come le altre autorità amministrative indipendenti, di un nucleo della Guardia di Finanza, non per fare accertamenti fiscali, ma per poter svolgere quell'attività di verifica della veridicità dei dati che vengono messi. Però, mi scusi, adesso lei ammetterà che è paradossale che lo Stato che lei rappresenta chieda allo Stato di fare una verifica su se stesso, perché io capisco sul settore privato, ma insomma queste sono... Io spiego subito, io ho 19 persone. No, ma ho capito, però dovrebbe essere in automatico. Lei fa una richiesta, le amministrazioni pubbliche sono tenute a mettere, mancano gli stipendi di quelli che guadagnano di più, ma è assurdo chiedere allo Stato di indagare. Però noi abbiamo fatto una rilevazione, noi prima nel preparare la relazione sull'attività svolta nel 2011 abbiamo disposto delle griglie, abbiamo rilevato in che misura, entro che limiti, le regole di trasparenza erano state rispettate, abbiamo visto che c'erano rilevanti lacune. Per questi motivi abbiamo da un lato sollecitato le amministrazioni a integrare e completare i siti di trasparenza dove sono pubblicate queste retribuzioni. Abbiamo chiarito cosa significa retribuzione, che non è ovviamente solo la retribuzione base, e poi per verificare la veridicità, perché l'ho detto, queste retribuzioni sono il risultato di una componente di veridicità. Ho capito tutto. Non posso fare con 19 persone, questo è tutto. Beh, 19 persone non sono poche, dipende. Sì, noi abbiamo da seguire tutta la performance delle amministrazioni, lo stato di qualità, questo è uno dei compiti. Senta, Presidente Martone, mi dica un'ultima cosa su questo tema. Prego. Ma secondo lei, al di là del vostro lavoro di operazione trasparenza, si arriverà a mettere un tetto ai funzionari pubblici massimo di 300.000 euro? Cioè, guardi, accetterà il presidente dell'antitrust di guadagnare quasi la metà? Credo che il presidente dell'antitrust già ha detto che sarà adeguata alla retribuzione. Vale anche per il capo della polizia Manganelli? Io le posso dire una cosa: noi abbiamo il decreto legge del dicembre dell'anno scorso, governo Monti, decreto legge e poi legge di conversione, la 2.14, che già prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere definito il trattamento economico anno omnicomprensivo. Per cui, secondo lei, sì, ce la faremo? Credo, questo è un compito, non sta a me. Dico, ma secondo lei... Guardi, lì non si tratta neanche di andare più a cercare... No, Martone, mi dica solo sì o no, perché un'ultima... Secondo lei ce la faremo? Io mi auguro che ci si faccia. Allora, ultima domanda che ho per lei, è un nulla c'entra con questo, però ce l'avevo da un po'. La famosa frase di suo figlio, che è sfigato chi non si laurea, chi non si è ancora laureato a 28 anni. Lei l'avrebbe detta? Mi ha fatto la stessa domanda a un giornalista l'altro giorno, sai come gli ho risposto? Con un'altra domanda: Se lei fosse un dirigente privato, assumerebbe un ragazzo che ha 28 anni senza aver lavorato o fatto altro, è stato 10 anni e parcheggiato all'università senza laurearsi. Questo è tutto. No, io la risposta gliela... non uso certi termini perché purtroppo no, io la risposta, non sono giovane. Io la risposta gliela do, dico no, non lo assumerei, ma lei mi dà la risposta. Ha sbagliato suo figlio, visto che è diventato professore molto giovane e lei era un magistrato importante, a dirla lui, non che sia sbagliato il concetto? Lei come padre gli direbbe... Potevi star zitto? Non perché fosse sbagliato il concetto, ma non poteva dirlo a lui? Ma probabilmente non doveva usare quel termine, questo sicuramente. Ah. Non doveva usare quel termine, però sottolineare come i giovani devono essere spronati comunque a trovare una sistemazione, non accettare un atteggiamento passivo presso l'università, probabilmente attesa la funzione poteva dirlo. Poi resto, non voglio esprimere un giudizio su mio figlio, perché io credo una cosa, che si sarebbe voluto leggere magari tutti i libri che ha scritto prima di giudicarlo. Va bene, io la ringrazio invece e in bocca al... ogni... sa come dicono, sa come dicono a Napoli, devi dare, no, anche alla presidenza del Consiglio dei Ministri, che entro 90 giorni deve stabilire questi esattamente. Cioè, no, poi sa come dicono a Napoli, no? ogni figlio, no, l'espressione deve essere bella, ma so, quindi è difficile avere un giudizio netto. Invece in bocca al lupo per l'attività, speriamo, noi la risentiremo, che gli arrivino tutti i dati, soprattutto quelli più importanti degli stipendi, soprattutto, come ricordava lei, cumulativi, cioè tutto il cumulo complessivo dei manager della pubblica amministrazione. Grazie quindi al presidente del Civit Antonio Martone. Da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.